Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un caro saluto. Eccoci al nostro appuntamento mensile attorno a quella parola che scalda i cuori e plasma la vita. All'inizio di questo momento di condivisione della parola di Dio, della scrittura, mi affido allo Spirito Santo perché possa rendere la parola che condividiamo viva, forte dentro la nostra vita, e mi affido anche a Maria che accompagna le pagine della nostra storia. Come sapete, stiamo facendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli e siamo arrivati al capitolo 18. Siamo nel cuore della missione ad agentes dell'Apostolo Paolo e oggi ci misureremo proprio con una delle pagine più delicate della sua missione, quella con la comunità di Corinto. Invito quanti tra voi sono nella possibilità di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo sul capitolo 18 degli Atti degli Apostoli. Bene, mettiamoci subito in ascolto del testo. Prima di tutto con due parole introduttive, poi entrando, ascoltando, riprendendo la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Davanti a Corinto bisogna dire che forse nessuna comunità paolina ci ha lasciato una documentazione tanto abbondante come la comunità di Corinto. Abbiamo notizie che provengono dal Nuovo Testamento, ci sono ben due lettere di Paolo scritte ai fratelli di Corinto, la città e l'esperienza di Paolo è menzionata negli Atti degli Apostoli, quindi è una ricchezza di testi che permettono anche dei confronti l'uno con l'altro. C'è una ricca tradizione apocrifa e c'è anche una ricca tradizione patristica, dove i successori di Paolo nella comunità di Corinto hanno continuato a scrivere a questa comunità. Quindi una documentazione abbondante. Non solo, Paolo in questa comunità viene fortemente forgiato, non più dall'impatto diretto con Dio, che pur rimane sullo sfondo, pensiamo a Damasco. A Damasco Paolo è forgiato sulla via di Damasco dall'incontro con il risorto e non è nemmeno plasmato dal confronto con i responsabili della Chiesa, pensiate a quello che Paolo ha vissuto ad Antiochia, la sua comunità madre, o a Gerusalemme, dove Paolo è confrontato con i responsabili della comunità, a Gerusalemme con Giacomo, con Pietro, ad Antiochia con Barnaba e con gli altri fratelli della comunità. A Corinto Paolo è forgiato dallo scontro e dall'incontro con quelli che all'inizio hanno accolto il suo messaggio, che a un certo punto diventano una sorta di presenza che fa resistenza alla sua modalità di formare la comunità e che desterà in lui non poche preoccupazioni quando avrà lasciato Corinto. Com'era la Corinto del primo secolo? Corinto arrivava da una storia gloriosa. Nel mondo greco Corinto si era estesa così tanto che questo gli aveva valso il titolo di città opulenta, città ricca. Roma però, quando aveva conquistato quella regione del Mediterraneo, aveva punito l'orgoglio di Corinto e nel 164 a.C. L'aveva rasa al suolo, perché questa città non doveva assolutamente, città portuale, città di scambio tra Oriente e Occidente, questa città non doveva fare ombra alla nuova capitale dell'impero, che era Roma. Quindi 164 a.C. una distruzione radicale e per ben 100 anni le rovine rimasero tale e quali. Fu solo Cesare Augusto nel 44 a.C. che ne ordina la ricostruzione e pochi decenni prima della nascita di Gesù La città torna ad essere sede del governatore romano di Acaia e pian piano riprende la sua potenza. Pensate che lo storico Strabone, che muore prima del 25 d.C., testimonia che la città ha ritrovato la sua antica agiatezza, è diventato un polo di incontro tra culture e forme di religiosità diverse e è diventata un punto di attrazione per i giochi panellenici che caratterizzavano il suo istmo, all'interno dei quali c'erano pure delle gare riservate alle donne, cosa originale per l'epoca. E le donne gareggiavano soprattutto nella corsa dei 200 metri e nella conduzione dei carri da guerra accanto agli uomini. Questo spiegherà poi alcune caratteristiche anche della comunità con cui Paolo si troverà a che vedere, si troverà a confrontarsi. Quindi, da un punto di vista di elementi introduttivi che ci permettono poi di capire, di focalizzare l'esperienza di Paolo nella città di Corinto, dobbiamo tenere presente: 1. Paolo si forma alla luce del confronto diretto con una comunità non facile da gestire, quindi con fratelli e con sorelle che gli danno in un certo senso un po' da filo da torcere a Paolo. Dall'altro, Paolo a Corinto si confronta con una realtà sociale molto viva, molto dinamica, molto anche ricca, che però ha delle convinzioni che fanno un pochino a pugni con quella che era la proposta cristiana. Ma vediamo come gli Atti degli Apostoli descrivono l'arrivo di Paolo a Corinto. Siamo al capitolo 18. Dopo questi fatti, Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Primo versetto. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. È importante mettere a fuoco di quali fatti si tratti. Paolo arriva a Corinto dopo una serie di fallimenti che lo hanno visto e lo hanno provato, prima a Filippi, la comunità a cui Paolo resterà legato in modo molto particolare per l'affetto che i filippesi manifestano nei suoi confronti, ma dove Paolo vive anche un'esperienza di prigionia e di persecuzione. Quindi Filippi, Tessalonica, Paolo aveva dovuto lasciare questa città prima ancora che il seme del Vangelo potesse essere consolidato dalla sua azione formativa. La Berea e poi Atene era stata l'agorà del grande fallimento. Paolo incontra il mondo della filosofia, il mondo della filosofia vuole saperne di più, ma nel momento in cui Paolo parla della risurrezione dei corpi, elemento che faceva pugni con le filosofie dell'epicureismo e dello stoicismo, Paolo è costretto a lasciare la città, raccogliendo dei magri frutti. I frutti ci sono, ma sono molto magri. Bene. Quindi Paolo arriva a Corinto fortemente provato, provato dai fallimenti che ha vissuto, provato per il fatto che dentro di sé porta la preoccupazione di queste comunità, Filippi, Tessalonica, i convertiti di Atene, che comunque ci sono stati, che non ha avuto modo di consolidare. E inoltre Paolo arriva a Corinto da solo. Ha dovuto rinunciare alla presenza di Timoteo e Sila in modo da permettere a questi due discepoli di consolidare quello che lui aveva seminato nelle comunità precedenti. Quindi c'è una sorta di solitudine, di esperienza del fallimento, di momento di prova, a cui tra l'altro si aggiunge la presenza di quei fratelli che vanno a screditare il suo annuncio e che provengono da Antiochia e da Gerusalemme, quindi tanti elementi che condizionano l'esperienza di Paolo. Quindi Paolo arriva a Corinto con queste preoccupazioni, eppure saranno proprio queste preoccupazioni che plasmeranno in lui il senso autentico del padre che si dedica a formare una comunità. Ma andiamo avanti nella lettura. Quindi dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Allora, noi sappiamo che questo editto di Claudio avviene in un preciso momento della storia, no? Siamo attorno al 50, al 51, quindi Paolo arriva a Corinto più o meno in questo periodo, da Roma sono stati allontanati i giudei più in vista, cioè quelli che attorno ai quali si radunavano le comunità, perché avevano capacità di influire sulle convenzioni, sulle convinzioni di quei fratelli. Nelle fonti romane ci viene detto che li allontanò a motivo di un certo Crestos, che alcuni abbinano proprio a Cristo, quindi sembrano essere piuttosto degli ebrei che portavano avanti la prospettiva messianica del cristianesimo. E tra questi ci sono proprio Aquila e Priscilla, una coppia di sposi che diventerà fondamentale nel ministero di Paolo. Tanto vero che, lo vedremo alla fine del capitolo 18, Paolo, dopo aver vissuto un'esperienza intensa con loro a Corinto, li porterà con sé a Efeso. Quindi, in un contesto di forte solitudine e anche di esperienza di fallimento proveniente da Tessalonica, Berea, Atene, Paolo sente che l'elemento fondamentale per lui è di non ripetere l'errore che ha fatto ad Atene. Ad Atene Paolo ha commesso l'errore di iniziare da solo con un atteggiamento negativo nei confronti della comunità e ha raccolto disastri. Non vuole ripetere l'esperienza a Corinto, quindi a Corinto cerca subito un contesto adeguato per sé, adeguato da diversi punti di vista, adeguato dal punto di vista della condivisione della fede. Aquila e Priscilla sono cristiani, credenti in Cristo come lui. Adeguato dal punto di vista del sostentamento, Aquila e Priscilla fanno un mestiere che si confà con il mestiere di Paolo, con il fabbricatore di tende, che permette a Paolo di guadagnarsi anche qualcosa, di non vivere alle spalle di altri che in questo momento ancora non lo conoscono. Nello stesso tempo questo tipo di lavoro gli permetteva di incontrare le persone, era un lavoro legato alle persone che commissionavano determinati ordini e man mano la gente si recava nel luogo dove Paolo lavorava, diventava motivo di dialogo, di confronto con loro e anche quindi di annuncio della buona notizia. Quindi il primo rilievo che emerge dall'esperienza di Corinto, Paolo non lavora più da solo, sente la mancanza dei discepoli di cui si è dovuto privare, nello stesso tempo però non fa più l'errore di Atene, cioè quello di iniziare a parlare di Cristo da solo. Prima di tutto cerca la condivisione e questa condivisione nasce attorno a una coppia di sposi. Teniamo presente che siamo nel periodo in cui va sempre più consolidandosi come luogo dell'esperienza cristiana quello della chiesa domestica, quindi la comunità cristiana pian piano si allontana dalla sinagoga, si allontana dalla visione dell'unico luogo sacrale per eccellenza, quale poteva essere il Tempio, per ridefinire lo spazio dell'identità comunitaria nella famiglia, nella casa, e il Tempio nel tessuto delle relazioni tra i cristiani, fino ad arrivare appunto che il vero corpo di Cristo è la comunità, con a capo Cristo stesso che dà unità a tutte le membra. E, tra l'altro, questo è proprio uno dei temi che Paolo sviluppa all'interno della corrispondenza con i Corinti. Andiamo avanti. Il testo continua dicendo: ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Quindi, mentre Paolo lavora, alterna il discorso del lavoro come fabbricatore di tende all'osservanza del sabato e, come anche altrove, Paolo inizia sempre a portare il suo annuncio nella sinagoga. Notiamo che a Corinto il suo intervento nella sinagoga, dove cerca di persuadere giudei e greci che Gesù è il Messia, non crea problemi finché lui predica di sabato. Cioè, la comunità ebraica di Corinto è una comunità aperta, dove si ascoltano diverse percezioni, diversi stili di vita, di incarnare l'ebraismo, ma senza respingere l'annuncio, l'interpretazione che ne viene fatta. Il problema viene quando arrivati Sila e Timoteo, Silvano e Timoteo, Paolo si dedica interamente all'annuncio. Probabilmente è passato anche il tempo in cui Aquila e Priscilla non lo conoscevano, oramai conoscono chi è questo apostolo e accanto al lavoro gli permettono di dedicare tempo proprio all'annuncio del Messia. Ma poiché, il testo continua, essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono innocente, d'ora in poi me ne andrò dai pagani». Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credettero e si facevano battezzare. Allora, notiamo che la strategia di Paolo, quando arriva nella città di Corinto, è una strategia progressiva. Inizia condividendo la sua fede con la coppia Aquila e Priscilla, poi si dedica all'annuncio di sabato, poi si dedica all'annuncio tutti i giorni. Nel momento in cui c'è un rifiuto da parte della comunità locale, rompe con la comunità locale con un gesto tra l'altro molto forte, che è quello di scuotere la polvere dalle sue vesti, in segno, come dire, è quasi lanciare una maledizione su quel luogo che inizialmente in fondo lo ha accolto, ma poi va ancora oltre, nel senso che sceglie come luogo di annuncio una casa attigua alla sinagoga. Quindi immaginate la provocazione e immaginate ancor più le tensioni che si vengono a creare quando il capo della sinagoga, questo Tizio Giusto, aderisce all'annuncio di Paolo e si sposta dalla sinagoga nella casa di Tizio Giusto che aveva ospitato Paolo. Sicuramente in quel momento la situazione diventa esplosiva. È vero che molti aderiscono all'annuncio di Paolo, però bisogna anche dire che la scelta di Paolo è una scelta altamente provocatoria, come il gesto di scuotere la polvere dalle sue vesti, come le parole che usa: il vostro sangue ricada su di voi. Quindi è un Paolo che agisce da un lato in progressione, ma dall'altro con una tenacia, con una forza che non lo smentisce, cioè resta sempre una persona che affronta la realtà in modo molto molto diretto. Cosa riusciamo ad attingere da questi inizi di Paolo nella comunità di Corinto? Ma sicuramente la prima cosa che attingiamo dagli inizi di Paolo è la strategia della collaborazione. Più va avanti, più Paolo si rende conto che da solo non può portare avanti l'annuncio cristiano. Ha bisogno della collaborazione di altri cristiani che insieme a lui portano la responsabilità della comunità. Nel caso di Corinto questi sono Silvano, Timoteo, Aquila e Priscilla, questa coppia di sposi che lo ospita. Quindi il primo elemento è senza dubbio questo, il primo insegnamento, che diventa anche un elemento pastorale missionario, cioè non ci può essere missione, la missione non è fatta per battitori solitari, la missione è un elemento che nasce da una comunione di cui lo Spirito si serve per portare l'annuncio di Cristo. Secondo elemento è l'elemento, come dire, del fortiter et soaviter. Qui utilizzo un binomio che era molto caro al mio fondatore, Don Giacomo Alberioni, il fondatore della famiglia Paolina, che diceva l'azione dello Spirito in ciascuno di noi è sempre fortiter ac soaviter, cioè con fortezza e nello stesso tempo anche con la dolcezza, l'attenzione verso tutti. Paolo si muove con dolcezza all'inizio, ma nello stesso tempo accosta questa dolcezza, questa attenzione a tutti, la fermezza di portare avanti un annuncio che ha parole forti, che mette in discussione coloro che lo accolgono e anche chiede degli atti di coraggio di cui Paolo non si, di fronte ai quali Paolo non torna indietro, non si esime. Allora, lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere brevemente questi 8 versetti, dopodiché continuiamo e vediamo cosa succede nella Corinto dopo che Paolo ha portato l'annuncio e diversi hanno chiesto di farsi battezzare. Un breve stacco musicale. Quindi cosa succede dopo l'annuncio che Paolo porta nella città di Corinto? Il testo ci parla di una visione nei versetti da 9 a 11, ci dice che una notte in visione il Signore disse a Paolo, non avere paura, continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città io ho un popolo numeroso. Così Paolo si fermò un anno e mezzo e insegnava loro la parola di Dio. Allora, questa visione è una visione che, narrata in questo modo, ha un che di misterioso. Ha tutti gli elementi che dal punto di vista narrativo vengono definiti elementi di conferma, è una visione di conferma, dove una persona particolarmente provata viene rassicurata nel suo mandato. Ecco, alcuni esegeti vedono in questi tre versetti un'esperienza di prigionia di Paolo. Sembra che Paolo, proprio a motivo della predicazione che lo ha accompagnato, finisca poi per essere nuovamente arrestato, cioè riviva l'esperienza che fin qui ha vissuto in tutte le zone dove è passato. Quindi, da Filippi a Tessalonica, dalla Berea ad Atene, anche a Corinto Paolo sperimenterebbe una sorta di persecuzione che finisce nella prigionia. Da dove noi capiamo questo? Diversi elementi spingono in tal senso. Quando Paolo scrive le lettere ai Corinzi, dietro le righe sembra richiamare esperienze di prigionia, soprattutto quando lotta con i superapostoli, no? Dicendo... Ma voi vi credete grandi perché avete avuto le esperienze mistiche più forti di questo mondo, ma io pur non vantandomi sono molto più, di più di voi, molto più nelle prigionie, molto più nelle percosse, molto più nelle cose che ho sofferto per Cristo. Ecco, laddove gli Atti degli Apostoli, in altre parole, parlano di una sola prigionia, che sarebbe quella di Filippi, Paolo usa il plurale scrivendo ai Corinzi e quindi fa ipotizzare che prima di scrivere quelle lettere che vengono scritte a Efeso, Paolo abbia vissuto più di un'esperienza di prigionia, quindi non solo quella di Filippi, ma abbia vissuto un'altra esperienza di prigionia anche nella città di Corinto. Tanto vero che queste visioni di conferme sono spesso associate a esperienze di prigionia. Tra l'altro anche nella letteratura patristica, faccio riferimento soprattutto a Giovanni Crisostomo, riflettendo sull'Apostolo Paolo parla di più esperienze di prigionia nella sua vita, nel suo itinerario, e tra le 7 esperienze che egli avrebbe vissuto viene menzionata proprio quella da lui vissuta a Corinto. Quindi, altro elemento che caratterizza la missione di Corinto, oltre a quello di una missione caratterizzata dalla collaborazione con altri fratelli e sorelle, è l'elemento della croce. Paolo a Corinto vive la dimensione della croce, non solo, ma capisce che la dimensione della croce è quell'elemento di debolezza che rende fecondo tutto il suo annuncio. Da dove deduciamo questo aspetto? Dal fatto che quando Paolo scriverà la corrispondenza, cioè scriverà le lettere ai fratelli di Corinto, sottolineerà proprio questa cosa, dicendo che fin dal primo ingresso sulla scena della città di Corinto, lui non si è presentato con forza di parola, non si è presentato con lo stile che aveva caratterizzato il suo ingresso in scena ad Atene, dove cerca di interloquire sul livello stesso dei filosofi, sul livello della filosofia, ma si presenta come uno che arriva da esperienze fallimentari, come uno che ha una parola molto semplice, come uno che pone al centro il messaggio della croce dopo che ha sperimentato il fallimento di un annuncio che mette in secondo piano la croce. A Corinto sembra porre la croce al centro. E questa croce al centro si manifesta anche nelle esperienze che lui vive, in questa esperienza di prigionia. Come si conclude l'esperienza di prigionia? Sembra che l'esperienza di prigionia si concluda positivamente per Paolo. Perché? Perché nel contesto della città di Corinto, il proconsole dell'Acaia, il cosiddetto Gallione, il nome che ci viene riferito dagli Atti degli Apostoli, è uno che nelle questioni religiose non vuole più entrare. Ma ascoltiamo il testo. Mentre Gallione era proconsole dell'Acaia, i giudei insorsero unanimi contro Paolo e lo condussero al tribunale, dicendo: «Costui persuade la gente a rendere culto a Dio in modo contrario alla legge». Paolo stava per rispondere, ma Gallione disse ai giudei: «Se si trattasse di un delitto, di un misfatto, io vi ascolterei, o giudei, come è giusto. Ma se sono questioni di parole o di nome o della vostra legge, vedetevela voi. Io non voglio essere giudice di queste faccende». E li fece cacciare dal tribunale. Notiamo, oramai le comunità a cui Paolo si dirige dopo che ha abbandonato la chiesa madre di Antiochia sono comunità dove la comunità ebraica non è più la voce dominante, e questo si manifesta anche in circostanze come queste. Loro vorrebbero vantare un diritto ma non hanno più alcuna forza, addirittura vengono cacciati. Allora, qual è la reazione della comunità ebraica? E fare in modo di trasformare questo in un atto di violenza. Dice: afferrarono Sostene, capo della sinagoga, lo percossero davanti al tribunale per avere attenzione, ma Gallione non se ne curava affatto. Quindi anche il povero Sostene, che probabilmente era tra quelli che inizialmente avevano dato la parola a Paolo, ecco perché se la prendono con lui dopo che anche Crispo se n'è andato, però questo, questa ripicca nei suoi confronti non ha nessun effetto. E Paolo? Paolo, dice il testo, si trattenne ancora diversi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria, in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era rasato il capo a causa di un voto che aveva fatto. Giunsero a Efeso, dove lasciò i due coniugi. Entrato nella sinagoga si mise a discutere con i giudei. Questi lo pregarono di fermarsi più a lungo, ma non acconsentì. Tuttavia, congedandosi, disse: ritornerò di nuovo da voi se Dio vorrà. Quindi partì da Efeso. Quindi Paolo si ferma a Corinto un anno e mezzo, dice il testo, quindi è una delle comunità in cui c'è precisato il lungo tempo in cui Paolo si ferma in modo da consolidare gli elementi della comunità, e non solo, consolida anche la collaborazione con Aquila e Priscilla, al punto che se li porta con sé in un'altra comunità che sarà una comunità non facile, quella di Efeso. anche se ritiene che non sia ancora il momento di fermarsi in questa comunità. E poi sale a Gerusalemme a salutare la Chiesa e scese ad Antiochia. Notiamo, Luca tiene nel suo racconto a far passare sempre Paolo a Gerusalemme. Ogni viaggio missionario di Paolo, per un motivo o per l'altro, lo porta a Gerusalemme. Alla fine del primo viaggio missionario deve scendere a Gerusalemme per la famosa assemblea, o quello che viene anche chiamato concilio, per affrontare la questione della circoncisione e delle norme di purità. Alla fine del secondo viaggio missionario passa a Gerusalemme per da un lato portare i doni della comunità, dall'altro manifestare la sintonia con questa comunità. Alla fine del terzo viaggio missionario Paolo tornerà ancora una volta a Gerusalemme, dove verrà arrestato e imprigionato. Quindi Gerusalemme resta sempre una tappa importante, anche se ci viene detto che tornerebbe anche ad Antiochia, cioè a quella chiesa madre che lo ha formato e che nello stesso tempo gli è causa di non pochi problemi, non poche difficoltà. Ecco, dopo aver letto questi versetti nel loro insieme, cioè l'esperienza di Paolo a Corinto dal versetto 1 al versetto 22 degli Atti degli Apostoli, cosa possiamo dire o cosa emerge da questa comunità? Allora, senza dubbio emerge il fatto che Paolo in questa comunità si ferma a lungo e cerca di tessere tutte quelle condizioni necessarie per far nascere una comunità solida. Dall'altro, come abbiamo visto, emerge l'elemento della collaborazione. Terzo elemento che emerge è l'elemento della croce, soprattutto nella prova della prigionia e negli effetti di questa prova. Insomma, tutto fa pensare a una comunità che è destinata a crescere nella forza e nel dinamismo, cioè più che altre esperienze qui Paolo si è proprio fermato, ha donato il meglio di sé, non è solo, è ben supportato da una coppia e dai suoi discepoli, quindi meglio di così come può maturare la comunità. Ecco, dalla corrispondenza con i corinzi veniamo a sapere che la comunità di Corinto è certamente ricca di doni, ma accanto ai doni ci sono non poche problematicità e sono praticamente i primi problemi che la comunità cristiana vive a Corinto, vive anche in altre parti, e che obbligheranno l'Apostolo Paolo a mettere costantemente sempre più a fuoco il suo annuncio. Quali sono questi problemi? Primo elemento, il problema del confronto con il mondo pagano. Portare l'annuncio di Cristo in un mondo pagano, che dovrebbe fare di per sé un passo previo dal paganesimo, dall'idolatria al Dio unico a Cristo, comporta alcuni elementi di ambiguità. Infatti, il problema della comunità di Corinto sarà quello di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, cioè di giocare un pochino sul compromesso, su quegli elementi che caratterizzano uno stile di vita pagano. Faccio degli esempi concreti. Pensiamo a tutta quella religiosità distorta legata al Tempio, dove si pensava di rendere culto a Dio con una religiosità che coinvolgeva anche la dimensione sessuale più disordinata. Paolo deve intervenire su questo punto. C'è poi la problematica del patronato, cioè nella società del primo secolo la gente, i fratelli si radunavano in chiese domestiche, cioè in singole case abbastanza capienti, dove ovviamente c'era il padrone di casa. Il padrone di casa, pur essendo credente, non era solo quello che ospitava la comunità, era anche una persona che aveva, a motivo del denaro, probabilmente della posizione sociale nella realtà di Corinto, aveva anche dei poteri di dare lavoro a quelli che si riunivano in casa sua, potere di proteggere quelli che si riunivano in casa sua, e in cambio le persone non condividevano solo la fede, ma dovevano rendere onore, rispetto a questo patrono che in qualche modo custodiva loro e le loro famiglie. Capite allora che nel momento in cui c'era qualche cosa che non andava, la comunità faceva fatica a opporsi a chi aveva la responsabilità della chiesa domestica. Perché? Perché questo gli garantiva tutta una serie di servizi. E a Corinto avviene proprio una cosa del genere, cioè uno dei responsabili delle chiese diventa uno che ha uno stile di vita morale e un modo di gestire anche la comunità che è in contraddizione con i principi cristiani. E Paolo inviterà la comunità ad essere radicale, decisa verso questa persona qui. Però non è così semplice per i credenti esserlo. Paolo si imporrà alla fine, però questo costerà lacrime e sangue. E lo stesso Paolo a un certo punto, vedendo che la comunità lo ha seguito ed è stata molto dura verso questa persona, inviterà la stessa comunità a riaccoglierlo, vedendo i segni di conversione del responsabile della comunità. Però sono tutti elementi che ci fanno capire come l'annuncio nel mondo pagano non è stato così semplice e immediato. Paolo capisce pian piano che ci vuole tutta una serie di pedagogia per accompagnare questi fratelli in Cristo. Quindi la prima problematica dell'annuncio a Corinto è proprio il riuscire a sfaldare, riuscire a rompere le catene del compromesso, l'ambiguità dei compromessi che caratterizzavano quella comunità. Seconda problematica, Corinto è una città grande, enorme, è una comunità dove ci sono delle sensibilità ben stabilite dal contesto socio-politico che caratterizza questa città. Bene, essendo la città ampia, radunando la diversità di sensibilità diverse, questo si manifesterà anche nelle chiese domestiche che la compongono. Sicuramente a Corinto ci sono 4 chiese domestiche, probabilmente ce n'erano anche di più. Ognuna di queste però cosa succede? Che cammin facendo, pur avendo tutte ricevuto la formazione da Paolo, da Aquila e Priscilla, da Sile e Timoteo, pian piano però si differenziano nel modo di vivere il cristianesimo, per cui alcuni si appellano a Pietro, alcuni si appellano ad Apollo, altri si appellano a Paolo, altri tagliano la testa al toro a tutti e si riferiscono decisamente a Cristo. Però non si tratta solo di affiliazioni diverse, si tratta proprio di concezioni diverse di vivere, con una distinzione tra una chiesa domestica e l'altra. Quindi problema, comunità grande, è quello della divisione in fazioni al suo interno. Ecco allora che Paolo interviene sottolineando l'importanza di una visione della comunità come unico corpo, dove se un membro soffre, tutti soffrono, se un membro è onorato, tutta la comunità è onorata, ma cerca di tessere quello spirito di famiglia che nella chiesa domestica di Corinto ancora non si è stabilito. Quindi non c'è solo la problematicità del mondo pagano, ma c'è anche la problematicità di una comunità che, essendo numerosa e probabilmente una delle comunità più numerose che finora Paolo ha stabilito, ha un problema di comunione, ha un problema di unità al suo interno. Terza problematica che emerge a Corinto è la logica dell'annuncio. Corinto è segnata dalle filosofie dell'epoca, è segnata dai principi dell'impero dominante, l'impero romano, pensa che anche la fede passi da alcuni principi, quindi si aspetta una fede che si impone a suor di carismi, a suon di sapienza di questo mondo, a suon di miracoli. Paolo qui deve portare progressivamente i fratelli della comunità a passare un'altra logica, che è la logica della croce, dove non è la sapienza di questo mondo che conta, ma la logica rovesciata del Signore che si spoglia, si fa servo. Non è un messaggio facilmente accoglibile dalla cultura del tempo. In una comunità che fa leva sui miracoli, sulla proprietà di linguaggio, Paolo si presenta come uno debole, perché non ha la proprietà di linguaggio di uno come Apollo, non ha la proprietà di linguaggio di certe persone che compongono la comunità di Corinto. Quindi occorre entrare in un'altra logica, e Paolo la identificherà con la logica della croce, come la logica più feconda per eccellenza. Poi c'è un altro elemento, quindi abbiamo visto problematica del contesto pagano, problematica della divisione, problematica della logica di questo mondo, c'è poi un ultimo elemento, c'è la problematica che noi diremmo liturgica, cioè del modo di celebrare. L'Eucaristia, che è il cuore della vita cristiana, e così è stata insegnata da Paolo, diventa lo scandalo della vita cristiana a Corinto. Tanto vero che Paolo deve intervenire deciso. Perché lo scandalo? Perché è motivo di divisione su più livelli. Attorno alla mensa ci sono delle divisioni che dipendono dalla ritualità ebraica e da quanto viene portato, cioè gli ebrei convertiti al cristianesimo che vivono a Corinto hanno dei problemi con le carni che vengono condivise alla mensa della chiesa domestica. Per alcuni quelle carni non sono lecite perché provengono dai templi pagani. Quindi il problema che era stato affrontato a Gerusalemme si ripropone. Non solo, ma si viene a creare una sorta di doppia mensa di serie A e di serie B, dove i capi delle chiese domestiche prima si abbuffano con i ricchi e poi dicono ai poveri: venite, leggiamo la parola di Dio e vi diamo gli avanzi. E Paolo interviene dicendo: questo non è assolutamente il modo cristiano di celebrare la cena del Signore. Terzo elemento di scandalo, la mensa diventa luogo conviviale senza preoccuparsi più di tanto di come uno vi arriva. Se vi arriva con comportamenti distonici rispetto all'annuncio cristiano, ai corinzi non importava più di tanto. E allora Paolo interviene dicendo: guardate che ascoltare la parola del Signore, nutrirsi del suo corpo e del suo sangue deve portare a plasmare la vita. Se la vita non viene plasmata da questi elementi, siamo in contraddizione. Provate un attimo a pensare a questi quattro elementi di difficoltà di Paolo nella cornice di Corinto. Sono gli stessi elementi che costituiscono per le comunità cristiane di oggi una vera e grande sfida. Il confronto con una cultura, tra virgolette, pagana, con una logica di questo mondo che è molto diversa dalla logica cristiana, la fatica. Secondo elemento, un cristianesimo che è talmente diffuso da essere segnato, diffuso non solo a livello mondiale, ma anche all'interno delle nostre comunità. I numeri, anche se ci lamentiamo che non sono più i numeri di una volta, però sono numeri alti, e i numeri alti portano poi a organizzarsi in sottogruppi, e per cui ci sono esperienze diverse con a volte l'incapacità anche all'interno delle stesse parrocchie di un'associazione di accogliere l'altra, della corale di accogliere il coro dei giovani, di coloro che seguono la Caritas rispetto a quelli che portano avanti un gruppo di preghiera, cioè c'è tutta una serie di incapacità di percepirsi a volte come un unico corpo da rendere il cammino faticoso. Pensiamo anche alle comunità ambrosiane, no? Dove gli oratori sembrano a volte fare un percorso totalmente autonomo rispetto a quello della comunità parrocchiale. E allora su questi elementi lo stesso Paolo si trovava a dover intervenire. E poi anche oggi la questione liturgica effettivamente è una questione che pone gli stessi interrogativi, cioè quanto l'ascolto della parola di Dio, la celebrazione dell'Eucaristia nutre e plasma il cammino di una comunità cristiana e non diventa invece un elemento di vita, come dire, privata, riguarda me e il mio Dio, però non è che mi tocca tanto nel mio stile di vita comunitario. E ciò contro il quale Paolo è intervenuto con forza. Ora, tutti questi elementi che hanno provocato Paolo, che hanno interpellato Paolo, che hanno suscitato tanti interrogativi, saranno quelli che non solo sono alla base della stesura della corrispondenza tra Paolo e i Corinzi, ma saranno quelli che determineranno il cammino della comunità cristiana nel primo secolo. E allora alla fine dobbiamo essere grati all'Apostolo e alla comunità di Corinto, una comunità così problematica, perché grazie alla sua problematicità ha permesso di mettere dei punti di riferimento chiavi al cammino cristiano. Anzi, c'è da dire di più, dalle lettere ai Corinzi, nella lettera ai Corinzi, che sono le lettere più sofferte di Paolo, tra tutte quelle che lui ha mandato nell'epistolario, non ci sono lettere così sofferte come quelle dei Corinzi, sono però anche le lettere dove abbiamo i tre grandi inni alle virtù teologali. Abbiamo l'inno alla carità, 1 Corinzi 13. Abbiamo l'inno alla speranza, che è la stupenda catechesi sulla risurrezione che troviamo negli ultimi capitoli della prima lettera ai Corinzi. Ma abbiamo anche l'inno alla fede, al capitolo 15, sempre della prima lettera ai Corinzi, dove Paolo ci consegna il credo più antico della storia cristiana, quando dice: ho ricevuto quello che anch'io vi ho trasmesso, che Cristo morì secondo le scritture, eccetera. Quindi nel tessuto complesso, sofferto, doloroso, che caratterizza il rapporto tra Paolo e i Corinzi, emergono questi tre germogli stupendi che accompagneranno tutta la storia cristiana. E questo ci dà anche una lettura positiva, di grande speranza, sulle difficoltà, sui conflitti anche che a volte possono caratterizzare le nostre comunità, se affrontati con fede, se letti con fede, se portati davanti al Signore, possono essere il terreno migliore su cui la vita cristiana germoglia e porta frutti. Ecco, carissimi, io avrei terminato nella mia riflessione di questa sera, e come sempre il nostro tempo è suddiviso in due parti. C'è una parte dove condivido alcune considerazioni sul testo, sul capitolo in questo caso 18 degli Atti degli Apostoli, e c'è una parte dove la parola viene lasciata a voi per brevi considerazioni, domande, interrogativi, richieste di approfondimento. Ora quindi lascio la parola alla regia in modo da comunicare le vie attraverso le quali contattarmi, telefonare in trasmissione, e anche per un breve stacco musicale che magari permette a ciascuno di rileggere questi versetti e poi di riflettere su quanto abbiamo condiviso. Grazie per l'ascolto e aspetto le vostre chiamate. Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Pietro, il telefono della provincia di Messina. Desideravo porle una domanda, se fosse possibile, gentilmente. Sì, certo, dica pure. Allora, è il rapporto che, diciamo, che legò il primo secolo del cristianesimo con una società che in fondo, come lei ben diceva prima, era pagana, ma era anche molto dedita al denaro, alla ricchezza. Mi verrebbe in mente quella frase: non cui vis contigit a dire Corinto, insomma. Come, in che senso, come riuscì in qualche maniera a fronteggiare questa secolarizzazione, perché era una società molto ricca Corinto. Certo. Grazie di cuore, Pietro, per questa tua domanda. Allora, io penso che l'elemento importante, no, quando ci si trova di fronte a contesti che sono molto diversi, magari dall'annuncio, dall'identità che uno porta avanti, sia proprio quello di avere presente la pedagogia utilizzata da Gesù. Paolo stesso, nella sua corrispondenza con i fratelli della Galazia o in Efesini o anche in altri testi, sottolinea a un certo punto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Ecco, questa è un'espressione che sintetizza il modo in cui entrare in dialogo nella cultura. La volta scorsa abbiamo visto i limiti e anche i pregi dell'approccio di Paolo ad Atene e avevamo notato come in un contesto così diverso da quello che poteva essere il contesto di Gerusalemme, per dire, no? Paolo aveva iniziato con un atteggiamento sbagliato e l'atteggiamento era quello di uno zelo che arrivava a disprezzare l'altro. L'atteggiamento che Paolo ripropone in altri contesti è diverso, cioè inizia con un dialogo, con un ascolto, con una immersione nella cultura a cui è mandato. Pensiamo a Corinto, inizia lavorando, inizia ascoltando, inizia solo di sabato nella sinagoga, poi pian piano prende sempre più piede fino a riprendere la tenacia che lo caratterizza. Però è chiaro che le modalità di annuncio del Vangelo sono delle modalità progressive che da un lato vanno incontro alla cultura a cui si è inviati e dall'altro mettono dei punti di sulle i, cioè Paolo nell'anno e mezzo in cui è stato presente a Corinto non aveva ancora avuto modo di rendersi conto di quelle che sarebbero poi state le sfide della comunità, la divisione, il compromesso, una liturgia svuotata del suo significato. Quando si rende conto che questo è avvenuto, sapendo le persone a cui si rivolgeva, ecco, non pensiamo comunità numerose di migliaia di persone, se arrivavano un centinaio a Corinto erano tanti, e Paolo sicuramente li conosceva tutti bene, bene, uno dopo l'altro, per cui si può permettere di intervenire in modo deciso e anche forte, duro, su alcuni argomenti, per dire: guardate che la scelta battesimale che abbiamo fatto va in un'altra direzione, ottenendo poi dei risultati, ma dietro c'è tutto un lavoro di ascolto, di inculturazione, di accoglienza anche del luogo in cui Paolo è stato, che gli ha permesso poi di far questo. Grazie di cuore Pietro per la sua domanda. Pronto? Pronto, pronto, dopo Pietro Paolo, ho questo onore, mi chiamo dalla provincia di Varese. Bene Paolo, grazie per aver chiamato. Senta, io non ho mai capito bene come funzionava, il commento della parola all'interno delle sinagoghe, quindi è una domanda trasversale, dal periodo di Gesù prendeva la parola nella sinagoga di Cafarnao, così come nelle prime comunità dei cristiani, come quelle in cui giungeva Paolo, e appunto diventavano comunità da ebraico a cristiane. Quindi quando non esisteva l'ordine sacerdotale come oggi, come faceva, mettiamo, Gesù, per quanto autorevole considerato, andare a Cafarnao e dire: oggi parlo io, oggi leggo? Era una cosa spontanea, come alcuni aspetti della Chiesa attuale, che uno può portare le offerte piuttosto che, o come dai Battisti, dove uno può prendere la parola, o come funzionava? E così è al tempo dei primi cristiani. Grazie di cuore Paolo, questa domanda è davvero interessante, no? E stimola anche ad approfondire. Allora, quello che io ti posso dire come risposta è chiaramente qualcosa di molto superficiale, ne avrei bisogno prima di tutto io di approfondire la questione e magari anche affrontarla con un esperto di ebraismo. Quello che ti posso dire io è che la liturgia dei tempi di Gesù, che avveniva nella sinagoga, non si discosta di molto dalla celebrazione attuale del sabato. Nella celebrazione attuale del sabato, dopo le preghiere introduttive, la comunità accoglie la legge, accoglie la Torah, a volte avviene anche in modo molto festoso, con tanto di processione e venerazione dei rotoli della Torah. Viene letta la Parashah. Che cos'è la Parashah? È la sezione della Torah, cioè la sezione del Pentateuco corrispondente a quella specifica settimana, perché l'anno è suddiviso in settimane e nelle settimane dell'anno c'è la lettura completa del Pentateuco. Dopo la lettura del brano del Pentateuco viene data lettura di un testo tratto dalla tradizione profetica e poi c'è il momento del commento. Segue poi la parte delle preghiere, delle cosiddette intercessioni, delle invocazioni, dei ringraziamenti e così via. Quindi ci sono degli elementi che sono rimasti e che corrispondono sostanzialmente a tutta la prima parte della nostra celebrazione, alla cosiddetta liturgia della parola fino alle preghiere dei fedeli. Ora, la tradizione cristiana poi ha modulato un pochino diversamente il tutto, dedicando la prima parte all'Antico, la seconda alle lettere e la terza al Vangelo, però sostanzialmente la struttura era questa. Cosa succedeva ieri come oggi? Quando c'è una persona autorevole all'interno della comunità, questa persona nel momento in cui c'è dopo la proclamazione della Torah, prima di riporre nuovamente i rotoli nella nicchia che li custodisce, viene invitata a parlare, viene invitata a fare una riflessione, una meditazione, un commento sapienziale a quei testi. Tra l'altro fino ad oggi ci sono anche dei bravi commentatori, non per forza rabbini, che tengono dei commenti anche molto originali, molto, da un punto di vista comunicativo, molto affascinanti, sia perché magari sanno affrontare cose profonde facendo sorridere o anche perché hanno particolari talenti comunicativi. Quindi le persone autorevoli a cui veniva riconosciuto un dono particolare di sapienza erano invitate a parlare. Quindi Gesù a Nazareth viene invitato a parlare perché hanno sentito quello che lui ha fatto in altre città, hanno sentito che lo considerano un maestro capace di compiere segni e miracoli. Quindi anche a noi di qualcosa a Nazareth. E non a caso Gesù parla dopo la lettura dei profeti. Aveva preso in mano il rotolo e il rotolo dei profeti che gli era stato dato in mano riguardava la profezia di Isaia. Quindi sostanzialmente nella tradizione ebraica il culto sinagogale mantiene le stesse caratteristiche ed è stato ripreso anche nella celebrazione eucaristica, perché non dimentichiamo la tradizione cristiana ha la sua radice, la sua sorgente, il suo punto di riferimento nella tradizione ebraica. Grazie Paolo per la tua domanda. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, buonasera, sento. Padre, sono Maria, chiamo da Sicilia, provincia Trapani. Io ho da chiedere un consiglio riguardo alle mie riflessioni sul San Paolo, in particolare in modo sul Corinti, che San Paolo praticamente trova Corinti, si mette le mani in capelli, no? Una città piena di disordini, no? Come oggi, come viviamo noi oggi, tutti pieni di disordini, però San Paolo è stato molto forte, ammonisce e rimprovera tutta la società di Corinti e con essa anche il mondo intero, anche noi oggi, no? Giusto? Che noi quando, cioè un apostolo quando porta la parola di Dio, non deve portare la sua parola, ma quella di Dio, cioè se noi ci vantiamo solo perché portiamo la parola di Dio, non la nostra parola, che poi non porta frutti. No, se noi con la superbia, con il nostro orgoglio di presentare noi stessi, non porterà mai frutti. Quindi anche oggi succede tutto questo, giusto padre? Sì, quindi la tua domanda qual è? Se la mia riflessione è giusta, noi dobbiamo esserci umili, obbedienti alla parola di Dio, portarla con tanto amore e umiltà, soprattutto con tanta umiltà e tanto amore per i nostri, per Gesù e per i nostri fratelli. Allora la ringrazio Maria per il suo intervento, come potrei dire che non è giusto quello che lei dice? È chiaro che quello che lei dice è corretto, no? Nello stesso tempo, cioè direi Paolo non è che si è messo le mani nei capelli quando è arrivato a Corinto, se le è messe quando è arrivato ad Atene, ci dice il testo. A Corinto forse oramai aveva interiorizzato questa fase. Certa è una cosa, Paolo non si aspettava che una volta partito da Corinto, la comunità nella quale lui era vissuto almeno un anno e mezzo, probabilmente anche di più, nella quale aveva formato direttamente i fratelli, nella quale aveva potuto metterci tutte quelle energie formative che lui voleva, non immaginava che nel giro di poco tempo la comunità si sarebbe guastata in quel modo. Quello sì l'ha fatto preoccupare tanto. E da lì è nata la corrispondenza con questa comunità. Tra l'altro noi abbiamo due lettere, ma gli esperti ci dicono che queste lettere sono conflazioni di diverse lettere. Quindi in queste due lettere bisognerebbe individuare una corrispondenza a strati che poi è stata raccolta per comodità in sole due lettere. Ma emerge sicuramente il dolore di questo apostolo che vede i suoi figli andare un po' per campi dopo che lui li ha generati in un certo senso alla fede con tanta attenzione e con tanta premura. Quindi questo ci dice che certo bisogna portare con passione la parola di Dio, ma nello stesso tempo bisogna lasciarsi ogni giorno, quotidianamente, plasmare da questa parola, perché è un attimo lasciarsi portare da venti che non sono certamente quelli che provengono dal soffio dello Spirito. Grazie a Maria per il tuo intervento. Pronto? Sì, pronto. Sono Francesca, chiamo da Cagliari. Io ho letto da poco le lettere di San Paolo ai Romani. Non ho capito questa frase. Se possibile, quando dipende da voi, siate in pace con tutti gli uomini. Non vi vendicate, carissimi, ma cedete il posto all'ira divina. Sta scritto infatti, a me la vendetta, io darò ciò che spetta, dice il Signore. A me sembra una cosa molto forte questa, è una vendetta. Allora, grazie Francesca per il tuo intervento. Allora, non è certamente l'unica frase forte che lei trova nella scrittura, e neanche nel Nuovo Testamento, e neanche nelle sole lettere di San Paolo. Ci sono delle espressioni sia nel Vangelo di Giovanni che in altri Vangeli che Gesù attribuisce a sé e che sono altrettanto dure. Come intendere queste espressioni? Prima di tutto bisogna mettersi nella cornice del tempo. La cornice del tempo utilizzava un linguaggio bello colorito, soprattutto in quei testi che hanno a che fare con la fine dei tempi. E qui abbiamo a che fare con un testo che rimanda il discorso della vendetta nelle mani del Signore. Quindi la prima cosa è contestualizzare bene il testo che viene letto, a quali immagini fa riferimento, in che contesto viene detto. Seconda cosa, bisogna stare attenti che quelli che scrivono sono persone che vivono e hanno una cultura orientale, medio orientale. E sapete, gli orientali, i medio orientali, sono molto coloriti. Nelle emozioni, le emozioni vengono, come dire, descritte accentuandole in modo molto forte. I superlativi nelle descrizioni sono all'ordine del giorno. Quindi le cose, anche qui nel linguaggio, il linguaggio va un attimino soppesato, anche se cioè, le immagini forti sono utilizzate proprio per provocare, proprio per urtare. Terzo elemento, quando si leggono queste frasi, queste espressioni, bisogna andare sempre sulla parte che riguarda direttamente noi. Lei dice, non capisco quello che dice questo testo, no? Però la prima frase, la prima espressione è molto chiara. Siate in pace con tutti per quanto dipende da voi. Cioè, non siate voi quelli che decidono chi è bravo e chi non lo è, chi è da condannare e chi è da salvare. La condanna non spetta a noi, la condanna spetta a colui che negli ultimi tempi eserciterà la vendetta e l'ira divina. Vendetta e ira sono le due immagini che, secondo la tradizione profetica, caratterizzeranno il Messia quando viene nella storia. Oltre alla misericordia e all'amore c'è la vendetta e l'ira verso chi ha fatto il male. Ma quello che a noi deve stare a cuore è che non spetta a noi condannare nessuno. A noi spetta di vivere in pace con tutti, cercando di fare il maggior bene possibile. E Paolo dice questo a una comunità cristiana che si trova stretta, in un certo senso minata, soffocata da pagani da un lato ed ebrei anche che non accettano questa versione di religiosità che porta la radice ebraica da un lato ma la porta in tutt'altra direzione e quindi vanno un pochino contro la comunità cristiana. Paolo dice sia verso gli uni sia verso gli altri cercate di vivere in pace per quanto dipende da voi. Se vi perseguitano è chiaro che in qualche modo vi dovete tutelare, però mantenete sempre un cuore aperto perché il Signore può sempre trasformare i cuori di ogni uomo e Paolo di questo ha qualche esperienza. Grazie Francesca da Cagliari per il tuo interrogativo. Pronto, con chi parlo? Buonasera Don Giacomo, sono Anna Maria, parlo dalla provincia di Cagliari. Leggendo nella lettera ai Romani, che se non sbaglio è una lettera di San Paolo, io quando l'ho letta parecchie volte, insomma, perché l'ho letta con gioia tutto il Vangelo, insomma, dove ho trovato questa frase, dice, perché dopo aver conosciuto lo Spirito vi rivolgete di nuovo ai poveri e deboli elementi? Io ho capito qualcosa, però vorrei che me lo spiegasse bene lei, Don Giacomo, la ringrazio. Grazie Anna Maria per questa tua domanda, no? Come dicevo all'ascoltatrice precedente, tua concittadina, anche Francesca era di Cagliari, ogni frase, ogni espressione, soprattutto quella delle lettere, va ben contestualizzata, cioè va contestualizzata nell'ambito del discorso che Paolo sta tenendo alla comunità. In genere in tutte le edizioni delle Bibbie c'è sempre una parte almeno introduttiva che aiuta a capire le problematiche e anche le sfide che sono nascoste dietro una lettera, magari farsi aiutare anche da queste introduzioni, dalle note, no? Cioè, ad esempio una delle edizioni delle Bibbie, la Bibbia Via Verità e Vita, che da questo punto di vista è molto precisa, introduzioni abbondanti alle lettere, commenti filologici al testo per aiutare a capire alcune espressioni, ad esempio elementi di questo mondo, cosa vuol dire? Uno deve avere una noticina lì che spieghi e poi delle note teologiche, liturgiche, ai piedi della pagina che aiutano a capire il discorso che Paolo sta facendo nei singoli capitoli. Ora, quando Paolo scrive questa espressione, sta argomentando nei confronti di quei fratelli che nella comunità vogliono tornare alle prescrizioni ebraiche. E quindi Paolo dice, ma com'è che avete aderito a Cristo? Sapete che la vita è una questione di grazia, una grazia che è portata da noi dallo Spirito Santo, L'azione dello Spirito in noi qual è? Quella di formare il Cristo in noi. Quindi l'obiettivo di un'esperienza cristiana, l'esperienza di noi credenti, è quella di rendere, continuare a rendere vivo il Cristo nel mondo. Gesù deve poter continuare a guardare il mondo con i nostri occhi, deve poter continuare ad agire con le nostre mani, deve poter continuare a portare la sua sapienza con le nostre parole. Bene, come mai da questo qua ora tornate agli elementi di questo mondo, cioè tornate a osservare le prescrizioni, per dire alimentari, tipiche dell'esperienza ebraica? Perché tornate a quelle tradizioni che sono tradizioni umane, no? Legate alle problematiche su il modo in cui vengono macellate le carni oppure no? È un percorso indietro, cioè è fissare l'attenzione su elementi che sono elementi puramente umani. Oppure, rivolgendosi ai pagani, come mai avete iniziato con lo spirito ed ora tornate a vivere secondo i criteri di questo mondo, dove ciò che conta è colui che è forte, ciò che conta è colui che sa tante cose, ciò che conta è colui che si impone? No, bisogna tornare nella logica del Cristo. Allora, vedi Anna Maria, se uno ha il contesto di un Paolo che scrive per consolidare il discepolato, in questa precisa parte della lettera, certe espressioni diventano molto più semplici. Ecco perché è importante, no? La Chiesa Cattolica sottolinea che noi dobbiamo leggere la parola di Dio, e meno male che c'è chi legge le lettere di San Paolo, come lei, come l'ascoltatrice di prima, però sempre facendosi un pochino accompagnare dalle Bibbie annotate bene, perché le Bibbie annotate bene non ci danno un cibo masticato già da altri, ma ci aiutano noi a comprendere i testi. E allora c'è un'introduzione che fa da cornice alla stesura delle lettere e delle annotazioni ben precise, ben fatte, che ci aiutano a capire il testo. Ecco, io raccomando a lei, anche agli ascoltatori, l'edizione della Bibbia Via, Verità e Vita, non solo perché vi ho collaborato anch'io, ma perché credo che quella modalità di commento, di accompagnamento del testo sia quella pastoralmente più efficace per comprendere la scrittura. Grazie di cuore Anna Maria per il tuo intervento. Pronto? Parla con Gilberto da Milano. Volevo fare un commento, un'integrazione all'intervento precedente, che la signora aveva letto per quanto riguarda la giustizia di Dio, che era un passo un po' forte. Ecco, quando l'ha letto mi è subito venuto in mente anche il passo di Santa Faustina, no? Che praticamente negli scritti di Santa Faustina Gesù dice, adesso non ricordo bene le parole precise, comunque il senso è che chi non si mette nella misericordia di Dio, chi non si affida alla misericordia di Dio, perché non si fida di Dio, finisce nella giustizia di Dio. Però bisogna anche intendere, questo proprio è una cosa che ho cercato di capire pure io, che questo, tutto quello che c'è scritto nel Vangelo è scritto per amore per gli uomini, che non tante volte non ci dobbiamo spaventare di quello che scrive, anche i testi che sembrano molto duri, molto difficili, sono fatti per il nostro bene, per il nostro amore. Grazie Gilberto per questo tuo intervento, ottima integrazione, sono d'accordo, e anche è bello questa capacità di leggere la scrittura attraverso l'esperienza dei santi, no? Gilberto citava Santa Faustina, però sarebbe proprio bello anche qui, no? Un'edizione della Bibbia commentata grazie all'esperienza vitale che di questa parola hanno fatto i santi, e pensate a quante potrebbero essere le applicazioni da attingere alla vita dei santi. Allora lì è la parola che si fa vita, che plasma l'esistenza, proprio come la parola di Dio dovrebbe fare in ciascuno di noi, proprio come il titolo di questa nostra stessa trasmissione, no? La tua parola mi fa vivere. Grazie davvero Gilberto per questa tua integrazione e testimonianza. Il tempo è terminato e quindi passo ai saluti. Ringrazio prima di tutto Pietro da Messina, Paolo da Varese, Maria da Trapani, Francesca e Anna Maria da Cagliari e Gilberto da Milano che hanno arricchito con le loro domande, le loro integrazioni questa nostra trasmissione. Affido tutti voi alla misericordia di Dio, stringiamoci sempre di più a questa madre che accompagna la storia, Maria. Il centenario di Fatima ci ha portato proprio a riflettere come Maria continua ad accompagnare la storia in quel momento, oggi, facendosi presente in altre realtà, in altre situazioni, Maria accompagna la nostra storia e insieme allo Spirito favorisce quella formazione del Cristo in noi che stava tanto a cuore a Paolo. Preghiamo vicendevolmente, cari fratelli, sorelle, perché lo Spirito possa veramente plasmare il Cristo in ciascuno di noi. Vi affido a Lui e alla Sua parola che ha il potere di edificare e costruire ogni giorno. Dio vi benedica, ci sentiamo tra un mese. Grazie a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.